10, CQ canale 10, c'è qualcuno qua? 123, Milan, te la bagnate a me. Ebbene, Marco, sapevo di trovarti. Vedo che è sceso lo smitter perché l'antenna è bagnata, ma niente di che. Vediamo se posso misurare qualcosa, anche se ci vuole lo smitter esterno. E appena appena sale, no? Niente di che. Quando si bagna sale un po', 1,2, 1,3, anche di più, ma non è niente, è solo l'acqua che è conduttiva lì, eccetera. Va bene Natalino, cosa mi racconti? Ti racconto che non riesco a utilizzare nello schermo dello smartphone. Prima mettevo le cose, le potevo cancellare, adesso non si muovono neanche queste cose. Boh. Ma tutto a te sta succedendo. Secondo me sono quelli che ti hanno mandato le maledizioni, quei paraculi dei tuoi vicini. La macumba mi hanno fatto. Ehi, macumba, macumbera. Non riesci a muovere, non lo so perché, ma ti è caduto oppure qualche virus è entrato, non lo sai. No, non mi è né caduto né nulla, solo che non riesco a far funzionare quelle icone che ci sono per cancellarle, disinstallarle, non si muovono più. Boh. Non avrei fatto una foto allo schermo. Sei premendo il tasto accensione, volume giù, volume su, e ti compare uno schermo e boh. Cioè, ti compare la foto, ma è successo anche a me. Lo sai, ho fatto una schermata dello smartphone, no, e te la fa vedere subito. Poi andavo a cambiare, non cambiava niente, non potevo aprire icone. Ma cosa è successo? Poi scemo, guardo bene ed era una foto dello schermo. Addirittura. Cosa devo premere? Ma ci vuole il programma per catturare le schermate. Io ho un programma particolare, si chiama Screenshot, non lo so, una cosa del genere. Tu premi assieme, contemporaneamente, accensione, tasto accensione e spegnimento più volume giù, fa clac e scatta un'istantanea dello schermo. Quindi se devi far vedere cose trovate in internet, no, anziché salvare, puoi salvare una foto, però ci vuole questa applicazione. Ma io voglio muovere le icone, questa non è una foto, perché andare avanti e indietro ci va, apre le cose, però non puoi installare, non puoi far muovere le cose, le icone che ci sono. Ma hai provato a spegnerlo e riaccenderlo? O resettarlo? Non so se abbia il tasto reset il tuo. Così prendo tutto torna se faccio il tasto reset. Aspetta un attimo. Prova a spegnerlo, lascialo spento qualche secondo e poi lo riaccendi. Ti ho detto di riavviare. No, il tasto reset che io avevo sul tablet non è che mi cancellava le cose memorizzate, semplicemente quando si bloccava il sistema operativo, raramente, premevo reset e ripartiva. Come il tasto reset che c'è sul computer fissi, no? Tutto lì. Da me non c'è nemmeno, pensa, sul mio non c'è nemmeno. Se si blocca devi continuare a premere il volume, mi pare un 5-10 secondi, e se si spegne del tutto. Quello fa il reset da me, o non proprio reset, chiamiamolo spegnimento forzato. Attenzione Claudio, se l'ascolto. Non si è uscito in radio? Non si muovono. Natalie, portalo, non lo so, qualcuno che ne sa l'assistenza, perché non saprei cosa dire, a me non mi è mai capitato. Oppure prova a premere quel tasto di giù, non so se tu ce l'hai così o no, il tasto home più volte. piove, piove, la vecchia non si muove e poi non mi ricordo com'è la filastrocca. E beh, va. Già sono qua, dai. Poi alle 7 inizia Bonolis, me ne vado. Vi sto barattando con Bonolis. Ma vai e tocchi. Tu e lui. Cazzo. Facciamo una solo per andarsene, cazzo. La comunque sempre ricordati Nathalie, Allah è grande, anzi si può dire Allah è grande, capito? Allah è grande, grande, con la L, già lo sai cos'è il grande, sì. Ma io lo so, come dire che Allah è una grande testa ricca. No, perché il termine grande non tutti lo conoscono, mi il grande, e cos'è? Roba che si mangia, non lo sanno, basta dire la capocchia, la capoccia, mi se no che nomi altri può avere, la cappella, quello lo capiscono. Roba di QRM che si sta alzando, mi per la QRM di, come si chiama, elettricità statica, ho dovuto alzare lo squelch, è terribile. Altro che quelle fatturami, il gatto morto, gli occhiali rotti, tablet in chio... Sai che è dispiaciuto molto a mamma della gattina, perché ha rivisto la foto dopo tanto ed è dispiaciuto. Poveretta, lì ci tiene molto agli animali, è una cosa, si pone a pigni quasi. Ti avrei voluto vedere piangendo, eh? Già ti consolo io. C'ho 20 centimetri di consolazione. No, è altro che 20. Forse 15. Andando bene, 15. Nathalie, Radio 1, sì, dai. Radio 1, dai. Ogni tanto cerco di... O mi metto le cuffie. E aspettami, l'unica cosa è fare così, parlare così e così. Cosa c'è qua? Cosa c'è là? Mandalo via. Mandalo via il ladro. Aspetta, questa è la mia voce. Questi farabutti di questa via. Siamo tornati alle 3:30 a casa, mi pare. Ho dovuto aspettare un'ora per trovare parcheggio, tutto pieno, sopra, sotto, davanti, dietro. In quel fottuto bar c'era la macchina mezzo strada a destra, mezzo strada a sinistra, è una cosa allucinante. In un'ora non se n'è andato via nessuno da sotto casa, più i giri che ho fatto. Uno me l'ha fregato davanti agli occhi perché ho fatto inversione e quello invece è entrato contromano nel parcheggio. Finché, per grazia di Dio, uno è uscito da questa via e ho parcheggiato subito. Ma adesso guarda, sta diventando un incubo, da quando hanno aperto l'altro bar è peggio di prima, perché vanno tutti lì, capito? Non c'è nessuno, nemmeno in PMR, attenzione Pomponio, Claudio, a meno che l'antenna è attaccata, ah no, è staccata l'antenna, l'ho staccata per via del vento di ieri notte della Buriana, adesso la riattacco, da un attimino. A me hai chiamato? Ma dove sei, Nathalie? Io ho solo lo scanner adesso però, e non ho la radio. Capito. Eia, cesso natalizio, ciò. Oh, l'elettricità statica a Santiago 8, terribile, fa un ciocco. Evidentemente sta qualche temporale. Mi pare sentire un tuono lontano, lontano, basso. Oh. Vabbè. Va bene, quando viene lampi e tuoni stacco sempre l'antenna. Non che serva a niente. Sì, va bene. Ti apparisco. Eia. Doppio Roma, ci sei? Claudio, ci sei? Pomponio, ci sei? Chi? Non c'è nessuno nemmeno sul 23, o sbaglio? Da nessuna parte c'è nessuno. Va, come piove tutti si, staccano le antenne. Vabbè, finché non c'è temporale non c'è bisogno però. Biriboribu, tatarata. Biriboribu. Qua c'è sempre il codice Morse, sempre c'è il codice Morse, su quel canale, su quel ponte, lo sai? Vabbè. E quindi non sei riuscito a farlo funzionare, così è questo smartphone. Ma qual è quello nuovo? No, cosa è? Questo Anthem che ho, quello sempre. Non funzionano le icone, no? Tu quando le trascini, non trascinano me. Ma le apre le applicazioni? Eia. Non ci sarà qualche blocco che è entrato, blocco icone per non spostarle? Boh. Perché a me ogni tanto mi cambia le impostazioni. Cioè già due volte o tre mi sono trovato disattivata una funzione che io avevo inserito però. Io non l'ho disattivata. Ma deve essere con quegli aggiornamenti che fatti, rompe le palle, cambia qualcosa, Io niente saccio, io sarei andato al centro assistenza ufficiale. Ehi, ma non lo troppo grande, sta cosa non funziona, no? Ma loro non ne sanno, il venditore non sa niente, a lui interessa vendere, poi vaffanculo, capito, il cliente. Così fanno capire. Bisogna andare al centro assistenza, casualmente lo sbloccano loro. Ma centro assistenza Samsung ce n'è qua. Quelli di via Giovanni Pascoli sono tecnici che aiutano i telefoni. E quindi andrò lì e vediamo un po'. Beh, io penso sì, per una marca come Samsung ci sarà sicuramente il centro assistenza. Magari per la Huawei, non lo so, eppure sta facendo strada la Huawei. E vabbè. Al limite del negoziante ti dirà qual è il centro assistenza, se proprio non lo sanno fare loro. E infatti cosa tanto? Vediamo un po'. Già, non sentivo la suoneria di questo cavolo del telefono, Adesso mi ho messo questa che gli assistente. Eia. Oggi siamo andati da Osciano a mangiare il kebab, a comprare due cose, proprio due, perché io a mamma le ho sempre detto, tu portati almeno il doppio di quello che prevedi di spendere. Ci è portata 20 euro, no? Il kebab, tra kebab e Beozia, 6 euro e ci aveva solo 12 euro e doveva fare la spesa. Ma che spesa vuoi fare con 12 euro? Ha comprato due fesserie. Ho detto ti devi sempre portare almeno il doppio di quello che prevedi di spendere. Non entra in testa, no? Mamma mia, e beh, le donne d'altronde. Non è colpa loro. E lei mi ha detto, ma io credevo che tu portassi 250 euro. Io mai detto, ma lo dovevi chiedere tu, porta i tuoi 50 euro casomai. E meno male che avevo la carta di credito, abbiamo preso, almeno io personalmente, per me ho preso la carta per la stampante, che l'ho finita, una bomboletta di gas per fornelletti di scorza e finalmente hanno portato l'amaro Braulio, quello da 10 euro e fruscia. È l'ultimo amaro che gusterò, li ho provati tutti. Tutti, Averna, Bramacciotti, Montenegro, Amaro del Capo, Jägermeister, almeno tutti quelli, poi ci sono quelli imbevibili, che sono tremendi, tipo l'unico ma che ti stende, e poi quell'altro cattivo, schifoso, amaro come la fiele, come si chiama? Fernet Branca. Voce. C'è stato un fischio, cazzo. Il microfono mi sto corrompendo di cazzo, eppure sto aperto, cazzo, c'ha, deve essere la capsula, non serve. Vabbè, ma tu stai parlando normale al microfono come sto parlando io o stai parlando tipo così, a voce alta? Parlo col culo adesso. Cazzo, ma mica mi metti in passaggio. Che, stanno fischiando? O pernacchie? Boh. Oh, mamma Saura. Bebe. Ma ne capisci tu? Ma dimmi tutto, Nathalie. Ho detto se ne capisci tu di queste persone. Ma tu senti un fischio o cosa? No, ho sentito Trudy, di tutto ho sentito. Beh, più forte di me arriva, caspita. Io non sento niente su di te, nulla. Ma non c'è l'elettricità statica sotto di me. Cazzo, sei due ore facendo ciucucciù. Chi è quello che fa ciucucciù fra le gambe della sorella? Ciao Giulio, anche tu l'hai sentito? Sì, lo sento bene, lo sento. Sta facendo ciucucciù fra le gambe della sorella, quello lì. Io non sento niente, Natalino arriva bene. Ciao Giulio, ben entrato. A Natalino tutto male sta andando, cioè, si ha rotto gli occhiali, non gli funziona lo smartphone, quella gatta era morta, deve essere che i vicini, quelli del TV, gli hanno fatto la fattura. Lo so, me l'ha detto da ieri, ciao Marco, ciao Natalino. Ehi, c'è questo deficiente che sta ogni tanto, o un fischietto, o un ciucucciù, per cui l'ombrello di gatti gheggia. Cosa ne dici, oh Marco, sarebbe bello, così almeno non smette di fare ciucucciù. Oh, signor Castiglieggio, io quando sono buccendo un mezzo camion vedo grosso, tipo 300 o 330. Ecco. Ecco lui, noi. A me va di me, senti uno mi arriva a me, oh Marco. Però già lo sento nel radio. Ma non dà il minimo fastidio, Non dà il minimo fastidio. Non è possibile. E allora Natalie, tutto contro te che ci obbedivano, cosa ci vuoi fare? La mala sorte quando si accanisce su una persona, poi già, mai già passa, non ti preoccupare. E speriamo che passi in fretta, perché la cosa più grossa che mi è successa non ve l'ho detta. E speriamo che non duri molto questa storia. Telefonami. Perché ci sarebbe una cosa grossa. Ma grossa in che senso? Grave? Molto grave. Vabbè, non ne posso parlare qua. Allora così va male, Così va male. Oh mio, stavo dando un pugilato, stavo andando alla televisione, su Sport Italia, c'è il pugilato. Così. Non disperare, oh Natalie, dai. No, grave, speriamo di no, cos'è questa cosa grave? Il discorso grave non mi piace più. Dai, che non è così, se no non sei stato sereno come sei. Sì, sereno, devi stare sereno. Nella qui ti la rubò, fatti rubò, ho pigliato. È incinto. Incinto sì, Natalie, è vero? No. È incinto, adesso a questa età, a 60 anni incinto, Marco, anche tu. No, non so di cosa, appunto non so cosa possa essere, non sta lì, non ha detto, me lo dice in verticale, o quantomeno al telefono, e vabbè, sempre casini. Io ho lo squelce qua, perché poco fa addirittura, come si chiama, l'elettricità statica, sentivo quel ronzio fortissimo, quella specie di, non so come definire, crepitio, fischio, a Santiagotto, lo sai, l'elettricità statica. E l'ho alzato lo squelce molto, vabbè. Va e viene comunque, va e viene, si carica e poi si scarica, boh. Sì, anche qua, ma anche ieri era così, anche ieri, a momenti, certi momenti c'è, in certi momenti no, e vabbè, dai, vai Natalie. Natalino, dacci un indizio che nessuno può capire però, non ne vuole parlare, dai. Vabbè, Natalie, se puoi, quando vuoi mi telefoni, se si può dire, sempre, se no... va bene. Eia. Vabbè, comunque oggi almeno siamo usciti, sennò io ero 2 giorni sdraiato a letto, una cosa indegna, indegna. Avevo le gambe, tutta la muscolatura atrofizzata, mi facevano male le gambe. Purtroppo Giulio Sassari non offre niente, dove vado io? Sempre a Platamona a vedere con la maniera. No, a preferenza uno se ne rimane a casa, tanto più che c'è freddo la sera soprattutto, per cui dove vai? Hai ragione, Sassari non offre niente, d'altronde non è colpa nostra se stiamo vivendo a Sassari. Oi. È veramente una città morta, ma è sempre stata così, non c'è stato mai niente di diversivo, sempre così, nel solito tran tran, sempre la solita cosa. Ma questo anche se uno ha parecchi soldi, non ti crede che abbia molte alternative, no? Perlomeno standosene qui a Sassari, a meno che non se ne va fuori, il discorso è diverso. Per quello ci sono tanti bar, tanti circoli, così almeno la gente non sapendo cosa fare va a bere, come diceva quella canzone, al bar a bere, al bar a bere, a bere al bar. E così si annacquano tutte le... capito? Tutti bevono, anche le ragazze, le vedo ai bar, birra, sempre e solo birra. Io ero al bar poco fa, cosa ho preso? Un bel tè caldo al limone, una cosa spettacolare, era veramente buono, era tanto che non pigliavo il tè al bar, ma era veramente squisito, altro che birra, Qui la birra fredda è in inverno, chi è così cretino? Ma, non lo so, non ebbe buona estate io, né birra né nessun alcolico, penso un po', per me... Le persone che hanno il vizio di andare al bar a bere così alcolici, per conto mio sono degli scelerati, per conto mio. Poi ognuno chiaramente fa quello che crede, ci mancherebbe. Abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo, però è da scelerati andare lì al bar e abbruttirsi con le bevande alcoliche. Ma non te ne andi. Caspita, non ne bevo a casa nemmeno perché non mi piace, vabbè, ma lascia stare da me che io sono a semi, eccetera. Ma c'è gente che sta dalla mattina alla sera attaccata ai cicoli, tu li vedi, lui guardi in faccia e hanno la faccia precisa, l'accetto, dello stesso colore. No, non va bene così, no. Poi la maggior parte di queste persone, tutti sbandati sono, non hanno gente che non ha mai lavorato, o che se lavora si spende lì al bar, ma che razza di mentalità hanno, non lo so, o Marco. Dimmi cosa vi qui, Giulio, quando entrare va? Un caffè e cosa vi, e chi è cosa vi, dimmi tu cosa vi io. Nonno, tu già ti prendi il cappuccino qualche volta, Ah, Giulio, cappuccino, posso mangiare una pasta? Ma per gente dalla mattina presto, caspita, poi c'è la gente curiosa, tu senti, dammi un bimbi, io me la bagliarito, caspita, sono le 9 del mattino e stanno già bevendo alcolici, non è possibile, ce n'è uno adesso, senza criticare il poveraccio adesso, anche perché è malato, ha la bombola dell'ossigeno o Natalì, e va sempre lì al bar, al Moccador del Ponte Rosello. Beh, tu lo vedi, seduto a tavolino, con la bombola vicino, perché ne ha necessità, però col bicchiere pieno, ma non di un semplice cognac, no. Almeno triplo è questo cognac dentro questo bicchiere, tutte le mattine immancabilmente, una cosa, guarda, addirittura mi fa ribrezzo, mi fa merda. Vai, Marco. Eia. Caspita, è morente, con l'ossigeno ci beve pure il triplo cognac. Vabbè, io andavo in un bar che era lo zio di un compagno di scuola delle medie, no? Sempre cappuccino, cappuccino, cappuccino, e lì c'era un bevitore di vino e di birra, no? E mi facevano le battute e pigliavano in giro, dicevano, ti ha detto che non ti può chiamare? E io pensavo, di curatie, a me già non fa male il latte, il cappuccino. Loro, birra, vino, vino, vinello, vinello, vinello. Sì, sì, sì, ma sono così. No, hanno una mentalità proprio da certosini, non è possibile. Per me hanno il cervello anacquato d'alcol, e per quello è... per carità, caspita. Sì, così te lo sto dicendo, questo qui, poveraccio, adesso... E mi dispiace perché lo conosco da tantissimi anni anche, lo conosco. Io quando lo vedo, ciao ciao e basta, ma niente di più, eh. E tu lo vedi, seduto a tavolino lui, tutte le santissime mattine, e col bicchiere bello pieno, ma non di un semplice cognac. Mi come minimo glielo fa triplo, sempre, sempre, sempre. E quello è quello che vedo io, magari stando lì al bar che sa di queste razioni, chissà quanto se ne beve poi, Lo so, purtroppo nei circoli, a parte la gente quarantenne, ci sono molti anziani anche, perché, vabbè, quella è una spiaggia, bevono perché non hanno più alternative. A proposito di alcol, oggi abbiamo preso il Braulio, che è l'ultimo amaro da assaggiare, li ho provati tutti, tranne l'unicum che è imbevibile e tranne quello schifoso, cattivo, amaro, come si chiama? L'ho detto a Natalino prima, si chiama, dai Giulio che lo saprai, Fernet Blanc, è una cosa imbevibile, l'unicum è fortissimo, ti stende, insomma questo è il Braulio, è un amaro alpino, costa anche poco, 10 euro e spiccioli. Ed è l'ultimo, l'ho provati tutti, sia al bar sia comprati, l'ho provati tutti. È buono, molto buono il Montenegro, devo dire. Poi come diceva Claudio, ghiaccio arancio, naturalmente noi lo beviamo esclusivamente, che ne so, dopo pranzo o dopo cena. Non siamo attaccati alla bottiglia, E così, siccome è un amaro di alta montagna, sarà un po' amarogno, lo sai, le erbe sono un po' più amare. Guarda, il più dolce e stucchevole, perché era un po' stucchevole, era il vecchio amaro del capo, che era fatto mi pare in Calabria, e sai, aveva gusto di arance del Mediterraneo, era troppo dolce, troppo profumato, veramente. Anche perché Giulio lo dice il nome, l'amaro deve essere un po' amarogno, tipo che ne so, il Cinar, capito? Se è troppo dolce non è più un amaro, è un'altra cosa. E infatti, quello sì, infatti se è troppo amaro è veleno addirittura, non va bene. L'amaro secondo me dovrebbe essere come l'amaretto, ecco, al massimo dovrebbe essere quello. Poi dicono che è anche medicinale questo Fernet Blanc, ma tu ci credi? Ma va, è medicinale, è una bucaria, è gente che è abituata a bere certi tipi di alcolici, sono assurdi. Guarda, tu non ci crederai, io a caso ho anche il Don Perignon, c'è quello io, il Don Perignon, non è che l'ho comprato, ma l'avevo regalato mia figlia quando stavo lavorando in un certo posto. Costa 400 euro quella bottiglia, non due branche, 400 euro. Non ho mai bevuto un solo goccio, niente, niente, niente, niente. Sai cosa la usa mia moglie ogni tanto? ogni tanto scusa per quando cucina certi piatti che ci mette, ce lo mette in mezzo al piatto, cioè a quello che sta cucinando o quello che sta preparando Marco. Solo così noi lo consumiamo a casa, così diversamente no, nulla. Ma nessun tipo di... E io ne ho tantissimo di qualità di liquore, eccetera. E poi non parliamo di spumanti, queste cose qua. Ne ho diverse. Le usa mia moglie tutte le volte che ci portano, perché io non è che le compro nemmeno, ma le regalano, pensa un po', le mette sempre in mezzo a certi piatti, alla carne, eccetera, secondo quello che prepara ci mette una dose anche di queste cose qua, capito? Ma beh, l'amaro noi lo gradiamo, è come digestivo, soprattutto quando si mangia un po' di più, sai. Noi siamo abituati a un piatto unico, però poi magari ci aggiungi un'insalata, poi la frutta, poi il dolce, insomma, un po' si gradisce alla fine. Sì, guarda, io una volta per sbaglio ho bevuto questo Fernet Branca, era di un amaro, ma amaro fiele, e poi sapeva proprio di medicina, di ospedale, una medicina cattiva di altri tempi. Mai più l'ho toccato, uno schifo, almeno personalmente, eppure c'è gente a cui piace. Io non so come fa a piacere una cosa così cattiva. Ma non lo so davvero io, come fanno a buttare giù nello stomaco certi tipi di bevande, boh, non lo so, la verità, ma evidentemente le piace alla gente e lo consumano, ma io cosa vuoi dire? Ma non sono io, a casa nessuno di tutti i miei fratelli, nessuno, ma nemmeno i miei cognati, qualcuno così, ma solo mezzo bicchiere magari di vino quando stiamo cenando o pranzando, qualche cognato però, ma dei miei fratelli nessuno beve, nessuno, tutti quanti assieme, belle cose, bibite sì, arrangiate, Coca-Cola, queste cose qua, queste cose già... Già li beviamo, la verità. Ma Marco, lascia perdere. Vai Natalino. E io lo stesso non bevo nulla, guarda, se c'è o non c'è, fino a pranzo qualche volta lo bevo. Ma se c'è o non c'è non mi fa differenza a me. Acqua di fonte, di a nonno. Natalino è imbriacone fracico pure. Guarda, io manco l'amaro che t'hai bevuto tu invece. Perché a me ti sto dicendo, non mi quasi né caldo né freddo, di vero non vedo. Qualche volta qualche bicchiere di vino a pranzo, quando c'è. Sì, ma infatti io, se non c'è pazienza, certo se c'è un po' di amaro dopo pranzo, dopo cena, non è male. Però se non c'è pazienza. Io è che ho voluto fare questa sorta di assaggio di tutti gli amari. Certi li ho assaggiati al bar, perché se no a comprare le bottiglie mi sveno. Per esempio la Verna l'ho assaggiato al bar ed era buono, ti dirò. Invece il Ramazzotti, gli mancava quella rotondità, quel gusto, quella... non lo so, gli mancava qualcosa. Gustati così da un giorno all'altro, gli mancava un qualcosa. La Verna era più saporito, devo dire. E vabbè, ma poi alla fine, fatta questo esperimento, poi non è che sia fissato di amaro io. Per qualcuno è una... Per esempio nonno, vabbè nonno già se lo beveva il vinello a pranzo, ma lì sai da Florina avevano la vigna, era proprio una cultura. Si beveva il cinar dopo pranzo. Vedi, il cinar è una cosa blanda, sa di carciofo, non è male, è molto leggero, molto molto leggero anche a livello di alcol. Io sono peggio di quando vado al bar, massimo un caffè, cappuccino al bar è raro che io lo possa prendere, perché le mani sta rubando il cappuccino, il caffè. Non è bello, anche voi c'è un passo, il caffè, la pasta, E a quei pezzi. Aspetta che rilancio Giulio. Guarda, io come vado al bar, caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, latte macchiato, oppure marocchino, no, che sarebbe un caffè con un'aggiunta di cioccolata o roba del genere, oppure, che ne so, cioccolata calda, tutte queste cose qua, tè. Noi quando andiamo al bar anche con mamma, perché tanto gli amici sono quelli che sono, ci prendiamo sempre queste cose qua. Caffetteria, anzi certe volte arriviamo un po' in ritardo, no, di sera, e ci dicono la caffetteria è chiusa, e allora al massimo ci pigliamo un bitter che è analcolico, no? Un bitter, almeno è analcolico. Ma io sono già un mesetto, Natalia, quando stiamo facendo quel lavoretto da me, no, che hai visto, e la mattina prima andavamo sempre lì al Moccador, e la pasta sempre, che so io, una brioche oppure una pesca e il cappuccino. Adesso nemmeno quello, Natalie, andiamo lì in quel negozietto che c'è in via Gazza d'Aredda, e una bella focaccina a testa, bella imbottita con del companatico di due tipi, di solito fontina, prosciutto crudo o prosciutto cotto o salame, queste cose così, altro che caffè e che cognac, una di quelle focaccine sarde, mi è poca buona, tutte le mattine io e Antonello, mi prendi? Ma di roba cosa si difende? Quello sì. Non lo so come sono, di chi si piccotti se ti senti? Quelle focaccine sarde, io sono poco buono, gli sì. Ma che, per cui, questo è già un mesetto più o meno, là. Un mesetto perché lavori durano a lungo, perché se tu lavori 2 ore al giorno, cosa puoi fare in 2 ore? Non è che... Antonello voleva dire, facciamo che stasera, vai, cosa vai a dire? Anzi, lui stamattina non è potuto venire, ha dovuto accompagnare il fratello in un posto perché ha dei problemi. E sicché era anche solo. Però 2 ore al giorno, che poi se li metti insieme tutte quelle ore, cosa va? E va tu. Desideri di travaglio più o meno, o Natali, forse anche di meno. Ma già ho visto che già ne avete fatto. Già lo credo, ne abbiamo fatto sì. La parte che mi interessa adesso è quasi, si può dire che è quasi finita, per cui già stiamo andando, dai, piano piano, tra una chiacchiera e l'altra, tra una battuta e l'altra, e dunque tra una visita di un amico e una visita di un altro amico e così via. Per cui, anche ieri è passato Bacchisio a salutarmi, e lui mi ha fatto piacere. Va bene, avanti Marco. Marco Polo, dove sei? Si sarà spostato un attimo. Vedi, Bacchisio già mi dispiace, già sono un anno senza vederla, quell'altro. Appunto, ieri è passato. Ieri mattina è passato. E ogni tanto, quando stavo lavorando, Bacchisio già veniva di tanto in tanto a farmi visita, facevamo 2 chiacchiere. E ieri, dopo un bel po' di tempo, ma ormai io non essendoci lì, evidentemente adesso che ha saputo che sono lì, nella mattina è passato per quel motivo lì. Tutto lì, capito, Natali? Prima lo vedevo praticamente quasi tutti i giorni, quando aveva il negozio lì vicino a Vasco, no? Andavo, magari andavo da Vasco a prendere un cappuccino e gli passavo davanti e entravo a salutarlo. Poi lui il negozio l'ha lasciato e allora a quel momento ci vediamo di meno. Però di tanto, ripeto, già veniva a farsi a farmi una visitina. È stato un bel po' anche mentre lavoravo si chiacchierava anche eccetera eccetera, e andava bene ed ero contento. Avanti Marco, rientrato. Sì. Scusate, stavo parlando con mamma. Ho visto che Bonoli si è già iniziato, praticamente inizia alle 6 meno, alle 7 meno 10, non alle 7. E volevo andare a vederlo, dai. Sento anche un profumo di caminetto, il caro vicino ha acceso il caminetto. E si sente subito, capito? C'è la cantinetta, si fa coso, vino, formaggio, yuhu! E vabbè, beato lui. Un buon gustaio comunque. Signori, dai che vado, mi guardo un po' di... perché sai cos'è? Si apre la finestra, si apre uno spiraglio della finestra qui, che è tenuta elastico, e sapete perché? Per far passare il cavo del PMR. L'ho riattaccato, beh, cosa hanno avuto? Sta arrivando corrente fredda e mi rompe le scatole. Detto ciò, vado a vedermi Bonoli, dai, Natali, quando vuoi chiamare chiama, eh? Ok? Ciao Giulio, dai, sentiamo. Vedo che Claudio non entra oggi, forse è indaffarato sempre con la vendita della casa, dai. Ci sentiremo in migliori occasioni, anche come tempo. Sì, infatti, dai. Vabbè Marco, va. Se ti serve, c'ho una cartuccia di silicone, se devi sigillare qualcosa. No, Natali. Questo è il punto, bisogna fare il foro per far passare il cavo dal PMR. Mia zia mi ha detto, ma vuoi che buchiamo il muro? Te lo buco io, c'ho la punta adatta, io non ne voglio bucare, come gli scemi, invece andrebbe bucato come? Così la finestra sta chiusa, non entra aria, capito? Mimì, c'è la gatta spaventata, ogni tanto senti i tuoni, poveretta, e tende, passa passa, va a inguattarsi sotto qualche letto, qualche mobile. Ma anche io ce l'ho la punta. Gli fai il buco, gli metti il silicone per non entrare aria e sei a posto. Eia, vabbè, me lo vuol fare mia zia. Io per adesso ho detto soprassediamo, poi quando mi deciderò, perché non è che ci sia questo freddo o gelo nemmeno. Se avessimo proprio 0 gradi allora posso capire. Comunque almeno ci viene mia zia qua meglio, perché sennò ci piglia voci, lei. Dobbiamo essere perfetti come dice lei, capito? Pure che gli altri vivano come vive lei. E vabbè, noi già siamo sempre un po' disordinati. Va bene, detto ciò, dai. Ciao Giulio, ciao Natalino. Potete anche parlare tra voi, Natalino, non è che bisogna devi chiudere. Vabbè, ma qua ci sentiamo se vuoi andare, non c'è problema. Saluti da... Sì, a malapena sento te, Natali. Ciao, ciao, ciao. Scontracambiati, saluti alla 50, dai. Ok, anche io. Quelle figlie deve venire gente qua. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Giulio, ciao Marco, chi altro ci fosse nascosto. Ok, ciao Marco, allora, salutoni, a domani, se coincide. Chiudo anch'io, lo stengo anch'io, e sta qualche antenna nel baracchino e continuo a guardarmi la televisione. C'è del pugilato, c'è, dunque continuo a seguire quello. Però mantenere il baracchino lo stacco perché sento delle scariche elettriche abbastanza consistenti, sento, e non vorrei che mi fregasse il baracchino qualche scarica. Vabbè, ciao Natalia, alle prossime, dai, chiudo, ciao. Buon proseguimento giù, a te a Marta, alle prossime, dai che chiudo, che deve venire gente e non posso rimanere qua col coso acceso, là. Ciao. Ok, ciao, ciao, la sai, ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.